Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lui mi aveva fatto capire che non avrebbe mollato il colpo. Perciò decisi di vederlo di persona, al solo scopo di dirgli di no. Che era carino e gentile ad avermi invitato, ma non ne volevo sapere né di lui né di nessuno. Sono Melanie, ho 26 anni, vivo a Milano, sto studiando da educatore cinofilo, intanto faccio la dog sitter per mantenermi, convivo da quasi 3 anni ormai, direi che sono felice. Sono Alessio, vivo a Milano, ho lavorato per qualche anno come fonico, da un po' di tempo lavoro in banca. Sto sbadigliare, ah, mi sembrava bellissimo quel silenzio catartico, guardare le stelle, aspettarle cadere, poi cercarsi la pelle senza trovarsi mai. Le 16 e 10 minuti in punto, Radio 24 dal vivo Levante. Ciao Levante, buongiorno. Ciao, grazie. Siamo sempre a Voi Siete Qui, continuiamo a raccontare storie, la se avete sentito dall'intro. Oggi raccontiamo una storia doppia. Oggi Levante sei in una puntata particolare perché di solito tu non ascolti il programma, quindi te lo spiego. È un programma in cui raccontiamo ogni giorno una storia diversa, chiediamo un episodio della vita di una persona che in qualche modo lo racconti, che in qualche modo racconti qualcosa di lui. E oggi ci è arrivata una storia, o meglio, oggi la raccontiamo, ci è arrivata qualche tempo fa, da una storia raccontata da due persone insieme, che sono Melanie, me l'aveva anche detto Margherita, e Alessio, che sono un ragazzo e una ragazza che semplicemente si incontrano una sera e non smettono più. Wow. Cioè, mi pare che il titolo della storia sia il primo e l'ultimo incontro, appuntamento, perché no, il primo e l'ultimo incontro sarebbe brutto, il primo e l'ultimo appuntamento, perché si incontrano una volta e da lì vanno avanti e sono insieme da più di 2 anni, da quasi 3 anni. Ti ringrazio che me lo segnalavi, perché ne parlavamo giusto prima. Levante invece, ufficialmente, per chi non sapesse chi è, ed adesso sono solo fatti suoi, esatto, è la cosa più pop che c'è al momento nella musica italiana. Wow, lo prendo come un complimento. Beh, direi di sì. Tu hai la tua canzone, diciamo, che è il pezzo che ci canterai più tardi. La prima che hai cantato è Sbadiglio, esatto, che appartiene, insieme alle altre due che canterai, giusto, all'album Manuale Distruzione senza l'apostrofo, che esce a brevissimo, esce l'11 di marzo. Finalmente questo disco che veramente vede la luce dopo un anno da che è stato finito. Perché quindi, la storia è che un anno fa, meno di un anno fa in realtà, Alfonso è uscito il 17 maggio. Alfonso è un brano che, se andate su YouTube, ha 1,5 milioni di click, che sì, insomma non è poco. Non è poco, soprattutto per chi insomma arriva da una situazione molto più indie, no? Se vogliamo definirla così, un po' più indipendente, più intima e lontana dai riflettori della TV. Alfonso l'avete sicuramente sentita, perché ha un ritornello, ci fai solo proprio, poi là c'è la suoni tutta, però proprio il pezzo più famoso, no? Che vita di merda. Sempre Radio 24, sempre con Levante a cantare un pezzo di Alfonso. Levante comincia molto presto a cantare, sì, mi diceva. Sì, da piccolissima. A 13 anni. Levante nasce a Catania? Nasce a Caltagirone, in provincia di Catania, sì. Ok, e poi? Vive a Palagonia, parlo in terza persona. Sì, abbiamo preso questa piega. No, smettiamola. A 14 anni lascio la mia Sicilia e mi trasferisco a Torino, quindi adesso sono torinese. A tutti gli effetti sei torinese? A tutti gli effetti no, ma sono stata adottata, quindi. Cioè, che hai ancora la residenza a Palagonia? No, la residenza è già, no, sì, è ormai, okay, a Torino. Però io a tutti gli effetti, no, guardami, non sono. E poi comincia a cantare, dicevamo, a 13 anni, quindi ancora a Palagonia inizi. Sì, i primi provini li ho fatti, vivevo ancora in Sicilia. provini per cosa, scusami? Ad esempio, a 13 anni ho fatto il mio primo provino con Te di Reno a Roma per il festival degli sconosciuti, si chiamava così. E com'è andato? È andata che lui mi ha detto: bravissima, che testi molto profondi per una ragazzina di 13 anni, ci rivediamo quando sarai più preparata. Adesso secondo me non si ricorda neanche più, però io sono molto orgogliosa del mio percorso. Visto da vicino, Te di Reno com'è? È carino, è un orsacchiotto. Poi io ti parlo di 13 anni fa, comunque adesso okay. Non so, però era già bianco, alto, perché lui è molto alto. E poi invece insomma sei arrivata a Torino, hai cominciato a suonare dovunque, nel senso, sì, come chiunque faccia musica, quindi nei pub, nei locali insomma più frequentati musicalmente. Poi ti metti a fare il caffè, dicevi? Poi mi metto a fare il caffè perché devo pagarmi delle multe salatissime. Ma multe prese dove esattamente? La macchina, perché non pagavo il parcheggio. Cioè non pagavi il biglietto blu. Esatto. E a un certo punto si sono arrivate tutte insieme. Sì, ma parliamo di 500 euro no, o parliamo 5.000? Di 200 euro accumulate. Però per okay. Me erano tantissime. Quindi inizio insomma anche per avere una mia indipendenza economica. E poi a pagare multe e fare caffè. Cioè fare caffè per pagare multe e avere indipendenza economica. Sì, chiaro. E vai avanti per un po' per di anni. Per 2 anni e mezzo. Nel frattempo io ho scritto manuale di istruzione. E poi è arrivata Alfonso che ha fatto questo boom, questa esplosione. Che tu te l'aspettavi questa no, roba qua? No, per niente. E quando è che è successo che, te l'ho chiesto prima, già me l'hai risposto, ma io te lo richiedo, quando è che a un certo punto hai detto: wow, forse sta succedendo qualcosa? Io ti ho detto che non me ne sono resa conto. Benissimo, però... allora magari dopo ne riparliamo, te lo diciamo noi che è successo qualcosa. 349-238-6666, siamo sempre in diretta, continuiamo a raccontare storie. Levante è in studio per il live di Voi Siete Qui. Noi però abbiamo una storia da raccontare, e la storia di oggi è la storia di Melanie e Alessio. Con il mio ex ci eravamo lasciati da 6 mesi, e nella maniera peggiore. Tradita, ingannata, presa in giro e torturata sino all'ultimo giorno. Dopo mesi di depressione accettai di incontrare un altro ragazzo. Non volevo vedere nessuno e non mi sentivo pronta per niente. Lui però aveva fatto capire che non avrebbe mollato il colpo tanto facilmente. Perciò decisi di vederlo di persona, ma al solo scopo di dirgli di no, che non mi interessava, che era carino e gentile ad avermi invitato, ma non ne volevo sapere né di lui né di nessuno. È un tipo ed è tuttora molto cocciuto e molto perseverante, e anche in quel momento in cui io pensavo che mi avrebbe mandato a quel paese, invece è rimasto lì, mi ha detto: sei in ritardo ma andiamo lo stesso, non mi interessa cosa hai fatto e cosa hai detto. Posso fermarmi solo un paio d'ore al massimo, gli avevo detto nel pomeriggio, preparandomi la scena per la fuga. Arrivai in ritardo al luogo dell'appuntamento, avevo già il discorsetto pronto, il 2 di picche confezionato. Scesi dal motorino, tolsi il casco e lo guardai. Aveva addosso una maglietta brutta, ma così brutta che non potei fare a meno di scoppiare a ridere. E in un attimo tutta la frustrazione, tutta la rabbia, lo stress di quei mesi finirono in quella risata, che durò parecchi minuti. Quando finalmente riuscii a riprendere il controllo, pensai 2 cose. La prima fu che probabilmente se ne sarebbe andato da solo, senza il bisogno di discorsetti. Lui però non sembrava affatto intenzionato a muoversi. Mi disse: sei in ritardo. E la seconda cosa che pensai fu che già scaricare qualcuno non era una cosa simpatica. Ma scaricarlo subito dopo avergli riso in faccia era davvero troppo. Così mi fermai a bere quell'aperitivo. Ed ecco, mi ero arrivato in anticipo e mi ero seduto su una panchina. Melanie era in ritardo di mezz'ora. Una tizia rincorreva i 2 figli, una bambina e un bambino, e tutti e 3 urlavano. Il chiasso di quei 3, il ritardo di Melanie e soprattutto la sensazione che non fosse tutto perfetto amplificavano il mio disagio. L'atmosfera del Parco delle Basiliche mi era sempre piaciuta, con gli studenti che nei pomeriggi estivi si sedevano nell'erba per rilassarsi, leggere o bere qualcosa assieme. Per questo mi era sembrato il luogo giusto per incontrare quella ragazza che mi piaceva così tanto. Ci eravamo dati appuntamento, credo si chiami Parco delle Basiliche, dalle parti delle colonne di San Lorenzo a Milano. Non era un semplice mi piace, era proprio un mi piace tanto tanto. Per cui ritenevo che la cosa più opportuna da fare fosse conoscerci. Il fatto che non stesse andando tutto come volevo in quel momento mi stava irritando tantissimo. Avevo immaginato tutto quanto e ripassato nella mia testa ogni passaggio. Avevo scelto accuratamente le scarpe, i jeans e la polo, soprattutto, la mia preferita. Finalmente arriva lo scooter di Melanie. Lei che scende, si toglie il casco e lega la catena. Mi alzo dalla panchina, mi avvicino. Lei è una ragazza bellissima, alta, con i capelli lunghi raccolti in coda e gli occhi chiari. Ha un'espressione austera e grave che non l'abbandona mai. Eppure, appena mi vede, mi squadra ed esplode in una risata infinita, che lì per lì mi è sembrata una cosa veramente offensiva. E ride. Io sono sempre più incazzato e lei ride. Non sono sicuro di averla vista nemmeno concedere un sorriso fino a quel momento. E così, senza ragione e senza che nessuno abbia detto niente di divertente, lei è esplosa in una risata talmente incontenibile che ci mette qualche minuto prima di smettere. A quel punto io sono totalmente spiazzato e l'unica cosa che riesco a dire è: sei in ritardo. Lei mi spiega che la mia polo era orribile e da quel momento cominciamo a parlare. Quella sera stessa, grazie a quella orribile polo che impedì il discorsetto, siamo andati a vivere insieme. Sono passati 2 anni e 3 mesi. Corre veloce, le vite si scontrano dalle luci dell'alba al tramonto. Ritrovarsi abbracciati per anni e odiarsi all'improvviso. Sono le 16:21 minuti in punto, questa è Radio 24, il programma Voi Siete Qui e dal vivo con noi oggi c'è Levante, questo pezzo si chiama Memo. Esatto. E fa anche lui parte dell'album che sta per uscire, esattamente l'11 di marzo. Tra l'altro, se andate sul profilo Facebook di Levante, che è semplicemente Levante, su Facebook. www.facebook.com/levantemusic. Beh, è più facile dire andate su Facebook e cercate Levante. Ci sono tutte le date del tour che parte il 20 di marzo dal Magnolia di Milano e poi il 25-6 a Roma all'Auditorium, il 27 a Benevento, poi Pescara, Bolzano, Bologna, Taneto. Taneto, dov'è Taneto? Taneto è in Emilia Romagna, Reggio Emilia. E poi Prato e Roncade. Caspita, la geografia. Intanto sul nostro profilo Twitter ci scrivono che ha una bellissima voce. Stefania dice addirittura che bella voce, è primavera. È vero, grazie. Non l'è ancora dal punto di vista climatico, ma quasi sì. Levante. No, dai, oggi fa un caldo pazzesco. Tu hai un tatuaggio che adesso noi non vediamo, no. Però grandissimo su questa spalla. Ne ho tanti. Questo qui è grande, grande. Ok, sì. E quello grande che è una sorta di pin-up, giusto? Mi sembra di ricordare. È una sorta di pin-up, sì. Ha questa scritta sotto, che è per aspera ad astra. Sempre. Che significa? Attraverso le difficoltà alle stelle. E perché? Perché sì, benissimo, 349-238. perché bisogna sempre puntare in alto. Tu quando hai cominciato pensavi che volevi fare la cantante? Cioè quando dicevi cosa vuoi fare da grande, voglio fare la cantante? Sì, io ho un tema di quarta elementare che purtroppo non ho ritrovato, ma ritroverò, uh-huh. Lo so, dico di voler fare la cantante, di voler andare a Sanremo con Pippo Baudo, dico proprio, cioè, specifico che il presentatore deve essere Pippo Baudo. Beh, tra l'altro facciamo prima una polemica sul fatto che... L'ho inventata io! Parlavamo di Sanremo. Esatto. Che non ti hanno voluto. Non mi hanno voluta. Non è che non ti hanno voluta. Oddio, c'è una giuria di qualità che ha scelto determinati artisti e si parlava di bellezza quest'anno e io non sono stata ritenuta bella. Senti, tu hai tra i 20 e i 30 anni, giusto? Quindi sei in quell'età in cui in Italia sei ancora giovane, cioè sei considerata giovane. Meno male. C'è qualcosa che si dice sui giovani? Delle tante cose che dicono sui giovani, no? Sai che insomma se ne parla tantissimo, i giovani di oggi non fanno questo, fanno quest'altro, non fanno quest'altro. C'è una cosa che ti sta veramente antipatica, che ti dà veramente fastidio, che dicono sulle persone che hanno la tua età? Ma si dice che questa è la generazione degli sfaticati, di quelli che restano tanto a casa con la mamma. Questa è una cosa che un po' mi infastidisce perché non la vedo intorno a me. Anche se tu sei ritornata. Io sono ritornata, ma perché ho perso casa. Ho perso la mia casa. Perché non hai più un lavoro? Nel senso che non hai più il lavoro al bar. No, non è per quello. ti ho mentito, però diciamo che sono andata via dalla mia casa. E sei tornata. Ok, ma ci stai bene però dalla mamma adesso? No, perché comunque sono un lupo solitario, però dove suoni? Adesso che sei a casa e non sei da sola, suoni in camera. In cameretta. In che orari suoni? Quando capita? Quando ti viene? Sono abbastanza libera, nel senso che comunque lavorando tutti in casa mia, io lavoro a casa, quindi sono serena da sola. Però dico, è una roba che ti metti, dici, adesso mi metto qui e devo tirar fuori qualcosa, oppure... aspetti che arrivi la voglia. Tutti i giorni, per cui la chitarra, insomma, la suono tutti i giorni, e è ovvio che ci sono dei momenti in cui sei più ispirato, per cui questo è un momento molto molto profondo per me. Sì, sto già scrivendo il secondo disco, per cui sono molto ispirato. 349-238-6666, siamo sempre in diretta, stiamo, ahimè, già per chiudere, e è arrivato il momento di fare il pezzo che è, diciamo, è un po' la mia banda suona il rock per Ivano Fossati, no? È un po' il tuo pezzo che in qualche modo ti identifica, anche se è poco più di un anno che è uscito, no, poco meno di un anno in realtà. È uscito il 17 maggio, per cui... Ok, poco meno di un anno, però è già di fatto... Ti dà fastidio questa cosa che ti si identifichi con un solo brano? No, è un po' presto per... No, perché comunque è passato poco tempo, per cui è giusto... La gente ha bisogno di metabolizzare, lo fa lentamente. Mi dici che accordi sono quelli di Alfonso? Sono semplicissimi, e chi non li trova da solo ad orecchio non deve mai più prendere la chitarra. Okay. Sono Sol, sì, La minore e Do maggiore. Ah, tu lo fai così, La minore? Io ho studiato 6 mesi alle medie e ricordo che La minore è più comodo farlo con le 3 dita vicine. Beh, se vuoi sì, però questo è un po' più aperto, no? Col barré do più ritmica quando suono. 16:26 minuti, stiamo per sentire l'ultimo brano che ci canta Levante dal vivo oggi. Il brano, se non lo conoscete, è colpa vostra, altrimenti è Alfonso. Sulle scarpe da sera e sembrerò seria e sembrerò in vena. La cosa più pop che c'è al momento in giro in Italia qui in studio con noi oggi è Levante. Grazie Levante per essere stata con noi. Andate a sentirla al Magnolia al 20 di marzo e soprattutto comprate dall'11 di marzo il suo nuovo album. Grazie ancora Levante, grazie a quelli un che hanno reso possibile, ciao. Il programma. Ciao Levante, ciao a Melanie e Alessio, anche loro sono dei punti rossi su una mappa. Io sono Lidia, abito a Mezzago e la storia di domani è la mia e parla di quando Pietro mi ha insegnato a fare la pizza. Questa è la mia storia e io sono qui.